Ad alta voce, Ermanna Montanari legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Diversi amici di José Arcadio Buendía, giovani come lui, eccitati dall'avventura, smantellarono le loro case, presero su moglie e figli e andarono verso la terra che nessuno gli aveva promesso. Prima di partire, José Arcadio Buendía sotterrò la lancia nel patio e sgozzò, l'uno dopo l'altro, i suoi magnifici galli da combattimento, sperando che in quel modo avrebbe dato un po' di pace a Prudencio Aguilar. Le uniche cose che Ursula portò con sé furono un baule col suo corredo nuziale, qualche utensile domestico e il cofanetto con le monete d'oro che aveva ereditato da suo padre. Non si fissarono un itinerario definito. Cercavano soltanto di procedere in direzione contraria a quella per Rio Hacha, per non lasciare alcuna traccia né incontrare gente conosciuta. Fu un viaggio assurdo. Dopo 14 mesi, con lo stomaco guasto dalla carne di micco e dal brodo di bisce, Ursula mise al mondo un figlio con tutte le sue parti umane. Aveva fatto la metà del viaggio in una maca appesa a un palo che due uomini reggevano a spalla perché il gonfiore le aveva deformato le gambe e le varici le scoppiavano come bolle d'aria. Anche se faceva pena vederli, con la pancia vuota e gli occhi languidi, i bambini sopportarono il viaggio meglio dei loro genitori e si divertirono per la maggior parte del tempo. Una mattina, dopo quasi 2 anni di viaggio, furono i primi mortali a vedere il versante occidentale della sierra. Dalla cima annuvolata contemplarono l'immensa pianura acquatica della Palude Grande, estesa fino all'altro lato del mondo, ma non incontrarono mai il mare. Una notte, dopo parecchi mesi di vagabondaggio tra i pantani, si accamparono sulla riva di un fiume sassoso, le cui acque sembravano un torrente di vetro gelato. Parecchi anni dopo, durante la Seconda Guerra Civile, il colonnello Aureliano Buendía cercò di ripercorrere quella stessa strada per prendere Rio Hacha di sorpresa e dopo 6 giorni di viaggio capì che era una pazzia. Ciò nonostante, la notte in cui si accamparono vicino al fiume, le osti di suo padre avevano un aspetto di naufraghi senza scampo, ma il loro numero era aumentato durante la traversata e tutti erano disposti e ci riuscirono a morire di vecchiaia. Quella notte José Arcadio Buendía sognò che in quel luogo sorgeva una città rumorosa piena di case con pareti di specchio. Chiese che città fosse quella e gli risposero con un nome che non aveva mai sentito, che non aveva alcun significato, ma che nel sonno aveva avuto un eco soprannaturale. Macondo. Il giorno dopo convinse i suoi uomini che non avrebbero mai trovato il mare. Ordinò di abbattere gli alberi per fare una radura vicino al fiume, nel luogo più fresco della sponda, e lì fondarono il villaggio. José Arcadio Buendía non riuscì a decifrare il sogno delle case con pareti di specchio fino al giorno in cui conobbe il ghiaccio. Allora credette di capire il suo profondo significato. Pensò che in un prossimo futuro si sarebbero potuti fabbricare blocchi di ghiaccio in grande scala, partendo da una materia prima tanto quotidiana quanto l'acqua, e costruire con essi le nuove case del villaggio. Macondo non sarebbe più stata un luogo infuocato dove i battacchi e le cerniere si torcevano dal caldo e si sarebbe trasformata in una città invernale. se non perseverò nei suoi tentativi di costruire una fabbrica di ghiaccio, fu perché allora era tutto preso dall'educazione dei suoi figli, specialmente di quella di Aureliano, che dal primo momento aveva dimostrato una rara intuizione alchemica. Il laboratorio era stato rispolverato. Riesaminando le note di Melchiades, serenamente, senza l'esaltazione della novità, in prolungate pazienti sedute, cercarono di separare l'oro di Ursula dal grumo che aderiva al fondo della caldaia. Il giovane José Arcadio partecipò appena al processo. Mentre suo padre aveva corpo e anima solo per Latanor, il volenteroso primogenito, che era sempre stato troppo grande per la sua età, si trasformò in un adolescente monumentale. Cambiò voce. Il labbro gli si coprì di una peluria incipiente. Una notte Ursula entrò nella stanza mentre lui si stava svestendo per dormire e provò un confuso senso di vergogna e di pietà. Era il primo uomo che vedeva nudo dopo suo marito ed era così bene corredato per la vita che gli sembrò anormale. Ursula, incinta per la terza volta, rivisse il suo sgomento di sposina. In quel tempo andava per casa una donna allegra, sboccata, provocante, che dava una mano nelle faccende domestiche e sapeva leggere l'avvenire nelle carte. Ursula le parlò di suo figlio. Pensava che la sua sproporzione fosse qualcosa di snaturato, come la coda di maiale del cugino. La donna scoppiò in una risata espansiva che si propagò per tutta la casa, come uno scroscio di vetri. «Al contrario», disse, «sarà felice». Per confermare il suo pronostico, qualche giorno dopo portò le carte e si chiuse con José Arcadio in un granaio contiguo alla cucina. Dispose le carte con molta calma su un vecchio banco da falegname, parlando del più e del meno, mentre il ragazzo aspettava accanto a lei, più annoiato che incuriosito. Improvvisamente allungò la mano e lo toccò. «Che affare?» disse, sinceramente spaventata, e fu tutto quello che riuscì a dire. José Arcadio sentì le ossa riempirglisi di schiuma, un timore languido e una terribile voglia di piangere. La donna non lo provocò, ma José Arcadio continuò a cercarla per tutta la notte nell'odore di fumo che lei aveva nelle ascelle e che gli rimase sotto la pelle. Avrebbe voluto stare sempre con lei. Avrebbe voluto che fosse sua madre, che non uscissero mai dal granaio e che gli dicesse che affare e che tornasse a toccarlo e a dirgli che affare. Un giorno non poté più resistere e andò a cercarla a casa sua. Fece una visita formale e incomprensibile, seduto in salotto senza pronunciare una parola. In quel momento non la desiderò. La trovava diversa, del tutto estranea all'immagine che ispirava il suo odore, come se fosse un'altra. Bevve il caffè e lasciò la casa depresso. Quella notte, nello stupore della veglia, tornò a desiderarla con un'ansia brutale, ma adesso non la voleva come era nel granaio, bensì come era stata in quel pomeriggio. Qualche giorno dopo, inaspettatamente, la donna lo chiamò a casa sua, dove era sola con la madre, e lo fece entrare nella stanza da letto col pretesto di fargli vedere un gioco con le carte. Poi lo toccò con tanta libertà che egli provò una delusione dopo il brivido iniziale e sentì più paura che piacere. Lei gli chiese di venire a trovarla quella notte. Lui acconsentì, tanto per cavarsela, sapendo che non ne sarebbe stato capace. Ma quella notte, nel letto torrido, capì che doveva andare da lei, anche se non era capace. Si vestì a tentoni, ascoltando nel buio la respirazione calma di suo fratello, la tosse secca di suo padre nella stanza vicina, l'asma delle galline nel patio, il ronzio delle zanzare, il suo batticuore e lo smisurato strepito del mondo, di cui fino allora non si era accorto, e uscì nella strada addormentata. Desiderava con tutto il cuore che la porta fosse sbarrata e non semplicemente accostata, come lei gli aveva promesso. Ma era aperta. La spinse con la punta delle dita e i cardini emisero un gemito lugubre che ebbe un'eco gelata nelle sue viscere. Dal momento in cui entrò, cercando di non far rumore, sentì l'odore. Si trovava ancora nel salottino dove i tre fratelli della donna appendevano le amache in posizioni che egli ignorava e che non poteva stabilire nel buio, e così avrebbe dovuto attraversarlo a tentoni, spingere la porta della stanza da letto e lì orientarsi in modo tale da non capitare in un letto sbagliato. Ci riuscì. Inciampò nelle amache, che erano più basse di quello che egli aveva supposto, e un uomo, che aveva russato fino a quel momento, si agitò nel sonno e disse, con una specie di delusione, «Era mercoledì». Quando spinse la porta della stanza da letto, non poté impedire che raspasse sul pavimento irregolare. Improvvisamente, nel buio assoluto, capì, con una irrimediabile nostalgia, di essere completamente disorientato. Nella stretta stanza dormivano la madre, un'altra figlia col marito e due bambini e la donna che forse non lo aspettava. Avrebbe potuto lasciarsi guidare dall'odore se l'odore non fosse stato in tutta la casa. Rimase immobile per un lungo momento, chiedendosi meravigliato come aveva fatto ad arrivare in quell'abisso di abbandono, quando una mano, con tutte le dita tese, che tastava nelle tenebre, gli sfiorò il viso. Non si sorprese, perché, senza saperlo, se lo aspettava. Allora si affidò a quella mano e, in un terribile stato di spossatezza, si lasciò portare in un luogo senza forma, dove lo svestirono e lo sballottarono come un sacco di patate e lo girarono per il dritto per il rovescio, in una oscurità insondabile, nella quale le braccia gli erano di troppo, dove non si sentiva più odore di donna, ma di ammoniaca, e dove cercava di ricordarsi il viso di lei, e si trovava davanti il viso di Ursula, confusamente cosciente, che stava facendo qualcosa che da molto tempo desiderava si potesse fare, ma che non si era mai immaginato che in realtà si potesse fare, senza sapere come lo stava facendo, perché non sapeva dove erano i piedi e dove la testa, né i piedi di chi, né la testa di chi, e sentendo di non potere sopportare oltre il fruscio glaciale delle sue reni e l'aria delle sue viscere e la paura e l'ansia stupefatta di fuggire e nello stesso tempo di rimanere per sempre in quel silenzio esasperato e in quella solitudine spaventosa. Si chiamava Pilar Ternera. Aveva preso parte all'esodo culminato nella fondazione di Macondo, trascinata dalla sua famiglia per separarla dall'uomo che l'aveva violata a 14 anni e aveva continuato ad amarla fino a 22, ma che non si era mai deciso a rendere pubblica la situazione, perché non era un uomo libero. gli aveva promesso di seguirla in capo al mondo, ma più tardi, quando avesse sistemato i suoi affari, e lei si era stancata di aspettarlo, identificandolo ogni volta negli uomini alti e bassi, biondi e bruni, che le carte le preannunciavano per le strade della terra e le rotte del mare. Tra 3 giorni, tra 3 mesi o 3 anni. Aveva perso nell'attesa la forza delle cosce, la sodezza dei seni, l'abitudine alla dolcezza, ma manteneva intatta la follia del cuore. Sconvolto da quel balocco prodigioso, José Arcadio ne cercò le tracce ogni notte attraverso il labirinto della stanza. Una volta trovò la porta sprangata e bussò e ribussò, sapendo che se aveva avuto l'ardire di bussare la prima volta, doveva bussare fino all'ultima. E dopo un'attesa interminabile, lei gli aprì la porta. Di giorno, crollando di sonno, godeva segretamente dei ricordi della notte anteriore. Ma quando lei entrava in casa, allegra, indifferente, chiacchierona, lui non doveva fare nessuno sforzo per dissimulare la sua tensione, perché quella donna, la cui risata esplosiva spaventava le colombe, non aveva nulla a che vedere col potere invisibile che gli insegnava a respirare in dentro e a controllare i battiti del cuore, e gli aveva permesso di capire perché gli uomini hanno paura della morte. Era così assorto che non comprese nemmeno la felicità di tutti quando suo padre e suo fratello misero in subbuglio la casa con la notizia che erano riusciti a vulnerare il grumo metallico e a separare l'oro di Ursula. In effetti, dopo complicate e perseveranti manipolazioni, ci erano riusciti. Ursula era felice e rese perfino grazie a Dio per l'invenzione dell'alchimia, mentre la gente del villaggio affollava il laboratorio e venivano serviti dolci di guaiba per festeggiare il prodigio. E José Arcadio Buendía mostrava il crogiolo con l'oro recuperato, come se lo avesse appena inventato. A furia di mostrarlo in giro, finì davanti al suo figlio maggiore, che negli ultimi tempi quasi non si faceva vedere nel laboratorio. Gli mise sotto gli occhi la poltiglia secca e giallastra e gli chiese: «Cosa ti sembra?» José Arcadio sinceramente rispose: «Merda di cane». Suo padre gli diede col rovescio della mano un violento colpo sulla bocca che gli fece schizzare il sangue e le lacrime. Quella notte Pilar Ternera gli mise delle compresse di arnica sul gonfiore, indovinando la bottiglia e il cotone nel buio, e gli fece tutto quello che volle, senza che lui si disturbasse, per amarlo, senza fargli male. Raggiunsero un tale stato di intimità che poco dopo, senza rendersene conto, stavano bisbigliando. «Voglio stare solo con te», diceva lui. «Un giorno o l'altro lo racconto a tutti e la smettiamo coi sotterfugi». Lei non cercò di acquietarlo. «Sarebbe bellissimo», disse. «Se siamo soli, lasciamo la lampada accesa per vederci bene e io posso gridare tutto quello che voglio senza che nessuno ci metta il naso e tu mi dici nell'orecchio tutte le porcherie che ti vengono in mente». Questa conversazione, il rancore mordente che provava nei confronti di suo padre e l'imminente possibilità dell'amore senza freni gli ispirarono un sereno ardire. Spontaneamente, senza nessun preambolo, raccontò ogni cosa a suo fratello. Sulle prime, il piccolo Aureliano capiva soltanto il rischio, l'immensa possibilità di pericolo che implicavano le avventure di suo fratello, ma non riusciva a concepire il fascino dell'oggetto. A poco fu contaminato dall'ansia. si faceva raccontare le minuziose peripezie, si immedesimava con la sofferenza e il godimento di suo fratello, si sentiva spaventato e felice. Lo aspettava sveglio fino all'alba nel letto solitario che sembrava un giaciglio di carboni ardenti e continuavano a parlare insonni fino all'ora di alzarsi, di modo che, ben presto, soffrirono ambedue della stessa sonnolenza, provarono lo stesso disprezzo per l'alchimia e la sapienza del loro padre e si rifugiarono nella solitudine. «Questi bambini sono come scimuniti», diceva Ursula, «avranno i vermi». Preparò una ripugnante pozione di paico pestato, che ambedue bevvero con imprevisto stoicismo, e si sedettero contemporaneamente sui loro pitalini per 11 volte in un solo giorno ed espulsero dei parassiti rosei che mostrarono a tutti, con grande giubilo, perché permisero loro di disorientare Ursula sull'origine delle loro astrazioni e languori. Aureliano ormai poteva non soltanto capire, ma poteva anche vivere come cosa propria le esperienze di suo fratello, perché una volta in cui questi spiegava con molti dettagli il meccanismo dell'amore, lo interruppe per chiedergli «Cosa si sente?». José Arcadio gli diede una risposta immediata. «È come una scossa di terremoto». Un giovedì di gennaio, alle 2 del mattino, nacque Amaranta. Prima che qualcuno entrasse nella stanza, Ursula la esaminò minuziosamente. Era leggera e acquosa come una lucertolina, ma tutte le sue parti erano umane. Aureliano non si rese conto della novità fin quando sentì la casa piena di gente. Protetto dalla confusione, uscì in cerca del fratello, che dalle 11 non era a letto, e fu una decisione così impulsiva che non ebbe nemmeno il tempo di chiedersi come avrebbe fatto per toglierlo dalla stanza da letto di Pilar Ternera. Girò intorno alla casa per diverse ore, fischiettando segnali privati, finché l'avvicinarsi dell'alba lo costrinse a tornare. Nella stanza di sua madre, intento a giocare con la sorellina appena nata e con una faccia che grondava innocenza, trovò José Arcadio. Ursula aveva appena compiuto i suoi 40 giorni di riposo quando tornarono gli zingari. Erano gli stessi saltimbanchi ed equilibristi che avevano portato il ghiaccio. A differenza della tribù di Melchiades, avevano dimostrato in poco tempo di essere non araldi del progresso, ma spacciatori di svaghi. Perfino quando avevano portato il ghiaccio, non lo avevano annunciato in funzione della sua utilità nella vita degli uomini, ma come una semplice curiosità da baraccone. Questa volta, tra molti altri giochi di artificio, portavano una stuoia volante. Ma non la presentarono come un apporto fondamentale allo sviluppo dei trasporti, bensì come un oggetto di divertimento. La gente, era logico, dissotterrò le sue ultime monetine d'oro per godersi un fuggevole volo sopra le case del villaggio. Protetti dalla deliziosa impunità della confusione collettiva, José Arcadio e Pilar vissero ore di completa libertà. Furono due amanti felici tra la folla e giunsero perfino a sospettare che l'amore potesse essere un sentimento più calmo e profondo della felicità smisurata, ma momentanea, delle loro notti segrete. Pilar, tuttavia, ruppe l'incantesimo. Stimolata dall'entusiasmo col quale José Arcadio godeva della sua compagnia, sbagliò forma e occasione e in un colpo solo gli fece cadere addosso il mondo. «Ora sì che sei un uomo», gli disse. E dato che lui non comprese quello che lei voleva dirgli, glielo spiegò chiaro e tondo. «Avrai un figlio». José Arcadio non osò uscir di casa per parecchi giorni. Gli bastava sentire la risata trepidante di Pilar in cucina per correre a rifugiarsi nel laboratorio, dove gli artefatti di alchimia erano rinati con la benedizione di Ursula. José Arcadio Buendía accolse con gioia il figlio traviato e lo iniziò alla ricerca della pietra filosofale che aveva finalmente intrapreso. Un pomeriggio i ragazzi si entusiasmarono vedendo la stuoia volante passare velocemente a livello della finestra del laboratorio, con lo zingaro come conducente e sopra parecchi bambini del villaggio che facevano allegri saluti con la mano. E José Arcadio Buendía non lo guardò nemmeno. «Lasciate che sognino», disse. «Noi voleremo meglio di loro, con risorse più scientifiche di quel miserabile giaciglio». Nonostante il suo finto impegno, José Arcadio non capì mai i poteri dell'uovo filosofico, che gli sembrava semplicemente un fiasco malfatto. Non riusciva a liberarsi dalla sua preoccupazione. Perse l'appetito e il sonno, fu preda del malumore, proprio come suo padre quando qualcuna delle sue imprese falliva. E fu tale il suo turbamento che lo stesso José Arcadio Buendía lo esonerò dai suoi doveri in laboratorio, credendo che avesse preso troppo di petto l'alchimia. Aureliano naturalmente capì che la tribolazione del fratello non aveva origine nella ricerca della pietra filosofale, ma non riuscì a strappargli una confidenza. Aveva perso la sua antica spontaneità. Da complice e comunicativo si fece ermetico e ostile. Ansioso di solitudine, morso da un astioso rancore contro il mondo, una notte disertò il letto come al solito. Non andò da Pilar Ternera, ma a confondersi nel tumulto della fiera. Dopo aver vagato in mezzo a macchine d'artificio d'ogni specie, senza interessarsi a nessuno in particolare, fu colpito da qualcosa d'altro. Una zingara giovanissima, quasi una bambina, stracarica di conterie, la donna più bella che José Arcadio avesse visto in tutta la sua vita. Stava tra la folla che assisteva al triste spettacolo dell'uomo trasformato in vipera per aver disobbedito ai genitori. José Arcadio non prestò attenzione. Mentre si svolgeva il triste interrogatorio dell'uomo vipera, si era fatto largo tra la folla, fino alla prima fila, dove si trovava la zingara, e si era fermato dietro a lei. Le si appoggiò addosso spingendo. La ragazza cercò di staccarsi, ma José Arcadio premette con maggior forza contro la sua schiena. Allora lei lo sentì. Rimase immobile contro di lui, tremando di sorpresa e di paura, senza poter credere all'evidenza, e alla fine girò la testa e lo guardò con un sorriso tremulo. In quell'istante i due zingari misero l'uomo vipera nella sua gabbia e lo portarono nell'interno della tenda.